Solo invicto, sì, solo invicto, sì, uomo. Questo è il mio Dio, la mia crew, la mia fede, uomo. Dei Don Gadi, Colipensky. Che cazzo guardi? Paga Milano MC. Questo è Dio, solo invicto, yeah. Sì, solo invicto, yeah. Sì, solo invicto, yeah. Sì, solo invicto, yeah. Sì, solo invicto, yeah. Sì, solo invicto, yeah. Sì, yeah. Il teschio in mano, legione armata da Milano. Chi è come me? Quel mio nickname, Techman. Più paura di me come un Pac-Man. Per la tua gente sono Superman. Per la tua gente tu sei fake man. Imparitore, cavaliere, Batman. Ascolta bene, amen. Non mi testare, no man. Io bugio a club e ucciditi. Puttana, cosa parli e fottiti. Ehi uomo, cosa mi provochi? Ti giuro che non esci da qui. Oh, Techmania nella garba. Ed ho solo Invictus la mia rabbia. Vengo solo un dio che spinge la mia guerra. Le mie rime come pugni danno merda, sì. Nikdo, muže to co mužu ja. Yo, yo, leknu se, kdy na mě děláš ba. Naučím si to furt sám. Naučíš mě tvůj rap a víš kam ti ho dám. Kam, kam, všechno v čudu. Nevím co chci, ale vím co budu. Mluvím ti taky anglicky, do you. Ale běž do prdele, běž zase v čudu. Milano, Dio solo invicto, sì solo invicto, sì uomo. Questo è il mio Dio, la mia crew, la mia fede, uomo. Dei Don Gadi, Colipensky. Che cazzo guardi? Praga Milano MC. Guardo fisso, camminata da soldato. Sono un burattino schiavo dello Stato. Tempo al tempo mi hanno insegnato. Ma quale tempo al tempo se tu il tempo non me l'hai ancora dato? Non mi va di aspettare, non ti aspetto. Capisci il mio stile, capisci anche il mio dialetto. Tanto qua è già tutto fatto, già tutto detto. E in questo sputo di universo non mi sento protetto. Ten ten ten to castel fuck nero su nei. Un misto jak Mike Nepovidej. Zdaleka vidím tě bilej. A tvoje otázky se mi nelíběj. Na ten rap jsem opilej, opilej. Já nechci být jedinej. Já chci být jenom jinej. Koukej, doufej, doufej. Stejně mě říká, že jsem hloupej. Legione armata da Milano.